sei cosa 2008. Musica vera, verace. Ok, ci siamo. Io ho fatto tutto quanto, ma ancora non so stanco. Ho inchiostrato ogni foglio del mio quaderno bianco. Ho cercato il salto, quello di qualità, scrivendo i miei testi nell'ora di matematica. Ogni tematica è perché la sento addosso. Qui niente falsità, se no sarebbe un paradosso. Io rappo perché posso descrivere la vita che vorrei. Magari un attimo di silenzio tra il chiasso. Il risultato del mio vero pensiero che inserisco nel CD perché il mio cervello è pieno. Ho imparato che devo fregarmene perché molti credi che siano amici, ma non è vero. E qualche volta spegni MSN, piuttosto accendi la vista sulle stelle. Gli impegni, il solito peso sulle spalle, ritardano alla musica che ho addosso come pelle. Questa è musica verace, verace. Questa è musica vera, vera, vera. Questa è musica verace, verace. Questa è musica vera, vera. Questa è musica verace, verace. Questa è musica vera, vera. Questa è musica verace, verace. Questa è musica, musica bassa. Questa è musica vera, perché coglie l'atmosfera come un pittore sulla tela. Rivela ogni sensazione che si cela, come la stanchezza dopo una giornata intera. Io e la mia biro nera, ma non di lutto. Se ho fatto un altro disco perché non m'ha cambiato tutto. Questa società, io non dovrei parlarne, perché chissà quante ce ne sono di verità. E mi convinco vivendo, cambio l'atteggiamento. Lunatica la vita che sto svolgendo. È la musica che mi sorride, le rispondo ridendo. Ma dopo quattro birre e giro tra i parchi e i palazzi, stai sicuro che per me non ci sono i paparazzi? E se un giorno la TV mi venisse a chiamare, io ci andrei, ma non mi farei omologare. Questa è musica verace, verace. Questa è musica vera, vera, vera. Questa è musica verace, verace. Questa è musica vera, vera. Questa è musica verace, verace. Questa è musica vera, vera. Questa è musica verace, verace.